Roma Trastevere, 23 novembre 1966. Cara Eleuterio, sono rientrata nella casa dalla quale uscì felice per diventare tua moglie. Ora sono tua moglie e sono triste. Triste come una lettura di poesie eseguita da Alberto Lupo. E penso anche che sei un deficiente se scateni una lite per un flacone di lacca per capelli. Sempre tua. Roma Parioli, 24 novembre 1966. Inenarrabile sempre mia. Se tu fossi rientrata nella casa dalla quale uscisti per diventare mia moglie, un attimo prima di diventare mia moglie, non saresti mia moglie. Ma purtroppo lo sei. Io sono più triste di te, perché oltre ad essere tuo marito, sono anche il genero di tua madre. Sarà deficiente scatenare una lite per un flacone di lacca per capelli, ma fino a quando la lacca per capelli resta nel flacone della lacca per capelli, io non litigo. Ma quando essa ne fuoriesce e mi viene a inamidare gli occhi, la bocca, i baffi, beh, allora sì, allora litigo. Ciao. Ho scritto: quando una donna dice con amore la mia bambina, con compatimento mio marito, con schifo mio genero, ella è più che suocera, è tua madre, Eleuterio. Roma Trastevere, 25 novembre 1966. Cara Eleuterio, felinucolo, felino di nessuna importanza e senza nemmeno stabilire di che tipo. Guarda, la mamma mi ha indicato un nuovo piatto per te. Si tratta di un piatto di porcellana doppia e del diametro di 70 centimetri. Lo tiene appeso all'ingresso, ma si è dichiarata pronta a regalarmelo se lo userò nella prossima lite. Ha dei pensieri, no? Il sole sta tramontando all'orizzonte. L'orizzonte. Non è che la rivetta di quell'enorme panorama che si chiama cielo. Non volevo spruzzarti la lacca per capelli negli occhi, ma che vuoi? Queste confezioni spray sono tutte uguali e tra l'altro l'insetticida era nell'altra stanza. Sempre tua. Roma Parioli, 26 novembre 1966. Cara sempre mia, l'amore è una strana cosa. Si può anche litigare, ma poi non si riesce a fare a meno uno dell'altro. E tu mi manchi. Quando sei qui e giri per casa, io riesco ad apprezzare una per una le doti fisiche di Sofia Loren. Ma quando non ci sei, Sofia per me è solo una bella donna e basta. Insomma, quando te ne vai, io non riesco più a rendermi conto dell'immensa stupidaggine che ho fatto sposandoti. Torna, anche perché la casa sta andando in malora. Il pianoforte a coda non emette più alcun suono. Deve essersi irrimediabilmente guastato. Noi non abbiamo litigato, vero? Ciao. Ho scritto: il pianoforte è tornato a suonare. La portinaia ci ha trovato dentro il mio impermeabile, 6 paia di calzini e 2 camicie. Eleuterio. Roma Parioli, 26 novembre 1966. Caro Eleuterio, micione, ci risono. Il che vuol dire che quando tornerai sarà come se non fossi mai andata via. Sì, Eleuterio, abbiamo bisticciato e come. Mi ricordo anche perché. Eri appena rientrato per colazione e... Ciao. Sei tu, Eleuterio? No. Mi scusi, signore, l'avevo scambiata per mio marito. Ma sei tu? Perché continui a fare lo scemo dicendo che non sei tu? E tu perché continui a domandarmi se sono io, quando non posso essere che io? Non si può mai dire niente con assoluta sicurezza. L'altro giorno hanno suonato, ma non eri tu, era l'idraulico. Ma ha suonato l'idraulico? Per forza, le chiavi di casa le hai solo tu. E io che cosa volevo intendere, secondo te? Ah, non lo so. Con te non ci si capisce mai niente. Ma che male ho fatto nella vita io? Io lavoro, pago le tasse con la mora, ma le pago. Do del lei ai vigili urbani, tengo la destra guidando, tifo per la Lazio, tranne la faccenda della Lazio, che cosa faccio di male per essere punito così? Si mangia? Sì, sì, si mangia. Una cosa alla svelta, perché stamani sono dovuta uscire, non avevo più niente di profumeria. E adesso hai tutto? Quasi tutto, ma ti devo parlare. Parla. La vita è aumentata e tu continui a passarmi una diaria preistorica, tanto che oggi, per potermi comprare qualche sciocchezza dal profumiere, ho dovuto fare i pranzi separati. Tieni, mangia le fettuccine. Ah, le fettuccine, le stelle filanti del carnevale gastronomico. Buone. Ah, lo credo, sono all'uovo. 1000 lire il chilo. Quelle sono due etti, 200 lire, 150 lire di burro, 150 di parmigiano, totale 500 lire il primo piatto. 500 lire un piatto di pasta? Certo, dimmi se c'è proporzione con questo rossetto francese che costa 3000 lire. Non c'è proporzione. Non c'è proporzione, 500 lire. Non mi va la pasta. Che c'è dopo? Filetto ai ferri con fagiolini al burro. Dai qua, la pasta la mangio io. Non si possono buttare 500 lire così. Tieni, mangia il secondo. Buono. Buono, sì. 3500 lire il chilo, sono tre etti, 1000 lire, quasi. E con i fagiolini, i condimenti, il gas, il piatto che ti ho servito costa 1500 lire. Contro le 5000 lire di questa crema che viene dalla Svizzera. Dimmi tu se è giusto. Non è giusto. Non è giusto che tu mi dica quanto costa la roba da mangiare. Mi passa l'appetito, non ho più fame. Dai qua, caro. Non penserai che butti, no? Mangio io. Qui c'è la frutta. Quanto costa questa pera? Circa 200 lire. Saranno tre etti a 600 lire il chilo. In proporzione più del doppio di questa lacca per capelli che costa solo 2000 lire al flacone. Ti sembra normale? No, non mi sembra normale. Niente è normale in questa casa. Non possiamo spendere 3000 lire a cranio solo per un pasto. È proprio quello che ha detto la mamma. La mamma? Ti riferisci naturalmente a quel distributore di benzina mobile e baffuto. È stata lei a consigliarti il modo di inguagliarmi il pranzo. Dov'è? Dov'è il fucile da caccia? Dov'è? Ferma, Eleuterio! La mamma non c'entra. Ha detto soltanto, digliela a quel cretino quanto costa la vita. Ah sì? Allora adesso vai da lei e dille che io la strangolerò prima o poi, in modo che tuo padre sappia quanto costa la morte. Ferma, Eleuterio! Eleuterio, metti giù quella sedia! Dammi quel flacone di lacca per capelli! Dammelo! 2000 lire mie! Ferma, Eleuterio, io... Aiuto! L'ha tentato! Aiuto! E io torno da mia madre! Ricordo perfettamente perché litigammo. Ma quando rientrerai, farò finta di niente. Ciao! Sei tu, Eleuterio? No! Sono l'idraulico. Oh, mi scusi, come ha fatto a entrare senza bussare?